Ave Maria a tutti, ragazzi e ragazze carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata di Spazio Giovani, dedicata, come tutti sapete, ormai da molto tempo al tema dei 10 comandamenti. Oggi, con l'aiuto del Signore, proseguiamo il capitolo cominciato la settimana scorsa sull'ottavo comandamento, scendendo ulteriormente un po' in merito e affrontando oggi in particolare il tema della calunnia e quello, per certi aspetti molto vicino alla calunnia, della maldicenza. Ecco, maldicenza, come dire, è un peccato molto spesso e da molti commesso e da non molti confessato. Sono tra i peccati contro l'ottavo comandamento e alcuni tra i più gravi. Ecco, vedremo che nell'analisi io citerò anche qualche ragguardevole fonte, insomma, qualche insegnamento di qualche santo che ha avuto modo di proferire parole abbastanza forti, chiare e severe, ecco, per ammonire dallo stare alla larga da questi brutti comportamenti. Allora, la calunnia, indubbiamente, abbiamo già accennato la volta scorsa, uno dei peccati in assoluto più gravi contro l'ottavo comandamento. E questo si compie quando si attribuisce al prossimo un male che non ha compiuto o un difetto che non ha. Quindi si inventa falsamente una cosa non vera, ovviamente moralmente disdicevole o peggio ancora degradante o infamante, attribuendola al prossimo e quindi conseguentemente facendola circolare con i mezzi ordinari o oggi, cosa ancora più grave, ne abbiamo detto qualcosa la volta scorsa, attraverso i moderni strumenti di comunicazione. Allora, teniamo presente che è questa in assoluto la forma più grave di maldicenza. E la calunnia, ordinariamente, che se ne pensi, è un peccato mortale. Non dobbiamo pensare ai peccati mortali in cerchie abbastanza ristretti. In se stesso, dice San Tommaso, questo peccato è un peccato mortale. Certo, se viene attribuito, come dire, se la materia attribuita è lieve, tipo, non lo so, mi invento, Don Leonardo ha detto una piccola maldicenza su Tizio e questa cosa non è vera, essendo comunque il male attribuito al calunniato non di grave entità, perché dire una piccola maldicenza non sarebbe comunque un peccato mortale e non è comunque gravemente infamante, forse in questo caso potrebbe non esserci peccato mortale, dato la lievità della materia. Ecco, però ordinariamente è sempre peccato mortale, anche perché il male, circolando, si gonfia e si amplifica, purtroppo. Ecco, e quindi bisogna assolutamente evitare, già bisogna evitare di parlare male del prossimo, come vedremo oggi. Figuriamoci diffondere o mettere in giro, quindi un conto è diffondere una cosa che viene saputa, un conto è metterla in giro di sana pianta, una notizia che non sia verificata. Perché attenzione, il fatto che la notizia non sia verificata, quindi che io non sia certo che sia vero, quindi potrebbe essere vero e come vedremo essere una maldicenza, potrebbe essere falso e quindi essere una calunnia, cosa che è più grave, cioè il fatto che io non accerti se l'informazione è vera o non è vera, non mi esime davanti a Dio dall'essere colpevole del grave peccato di calunnia. Perché se prima di aprire bocca, specialmente su queste cose, bisogna verificare quello che si dice. Tra l'altro, il calunniatore, come anche il maldicente, è ordinariamente un signor vigliacco, perché è un comportamento ordito alle spalle del prossimo, che non sa chi è stato, quindi non si può in qualche modo difendere, e e ripetiamo, è aggravata dal fatto che a causa della miseria umana le notizie cattive circolano con estrema rapidità. E quando si rovina la buona fama del prossimo, diventa complicato, anche quando fosse falso, per la vittima giungere ad una eventuale riabilitazione. Questo penso che possiamo, lo dobbiamo capire, no? Vi faccio subito un esempio chiaro, no? Anche sull'uso balordo dei mezzi di comunicazione. Vi ricordate qualche tempo fa, adesso pare che alcuni fenomeni si siano un pochettino sgonfiati, ma c'è stato un periodo in cui c'erano le famose inchieste giudiziarie eccellenti. Allora, personaggio eccellente riceve l'avviso di garanzia, che tra l'altro l'avviso di garanzia, come dice il nome stesso, vi parlo da avvocato, è un provvedimento che non significa assolutamente nulla, cioè semplicemente un provvedimento che il magistrato emana a tutela della privacy e del diritto di difesa dell'indagato, cioè se per qualunque maniera l'autorità giudiziaria deve indagare sul mio conto, non necessariamente perché colpevole di qualcosa, perché magari è un testimone di un procedimento, ha fatto il mio nome, per qualche cosa, deve fare qualunque tipo di accertamento, io devo saperla questa cosa. D'accordo? Perché non si possono fare delle, come dire, delle indagini sul mio conto senza che io sia avvertito. E questo è l'avviso, per questo si chiama avviso di garanzia. Il magistrato dice: guarda, caro Don Leonardo, che stiamo indagando su di te, quindi cercati un avvocato perché potresti essere chiamato in causa per questa indagine. La sto semplificando molto, no? Solo che capita un personaggio eccellente, prima pagina dei giornali, avviso di garanzia, quindi tu c'hai un bel marchio, perché dopo quali persone capiscono che l'avviso di garanzia è un provvedimento che non vuol dire sentenza passata in giudicato di colpevolezza? Quasi nessuno. Cioè, quello che circola è il tale personaggio pubblico X è un criminale perché ha fatto questa cosa. Poi quando le indagini sono finite, magari il procedimento che riguarda o che in qualche modo coinvolge questa persona viene addirittura archiviato, archiviazione vuol dire che neanche viene fatta l'udienza preliminare, cioè si capisce dall'esito delle indagini che questa notizia di presunto reato era del tutto infondata, non viene rimessa sulla prima pagina dei giornali, a volte non viene detto nemmeno, cioè la cosa svanisce nel nulla, oppure viene fatto un trafiletto in sesta, settima pagina, piccolo piccolo. Leonardo che era stato indagato per questa cosa, la procedimento è stato completamente archiviato, ma intanto però il fango che mi hanno gettato addosso, io me lo tengo. E per levarlo ci vuole la mano di nostro Signore, poi, una volta che è andata a circolare in questo modo la notizia. A questo proposito, ecco, vorrei subito citare un grande testimone che è il santo curato d'Ars. Vi dico soltanto alcune espressioni, poi vi leggo tutto quanto il periodo. Lui conclude le sue considerazioni che adesso vi leggerò sulla calunnia con queste parole: ogni calunniatore è un infame, termine abbastanza forte. E citando una massima addirittura di un padre della Chiesa, dice che bisognerebbe scacciare i maldicenti dalla società degli uomini come se si trattasse di bestie feroci. Pensate, curato d'Ars dice queste cose. Vi leggo un po' più nel dettaglio quanto scrive il santo curato sulla calunnia. Allora, cito testualmente, questa è dalle omelie del santo curato d'Ars. Per chi desiderasse approfondirle e leggerle bene, si trovano sul sito della mia parrocchia all'indirizzo www.parrocchiasanmichele.eu nella sezione download sotto la categoria fa formazione catechesi omelie c'è un link appunto omelie del santo curato d'Ars, sono tutte quante le omelie sull'argomento. Questa è l'omelia sulla maldicenza che consiste che fa diciamo che da cui sono tratte anche queste citazioni, no? È un crimine infinitamente terribile, scrive il curato d'Ars parlando della calunnia, ma che tuttavia è molto comune. Attenti a non ingannarvi, figli miei, fratelli miei, perché dal parlare male al calunniare il passo è molto breve. Anzitutto perché, se ci facciamo caso, ci accorgiamo che quasi sempre si aggiunge qualcosa e si aumenta il male che si dice del prossimo. Una cosa che passa per molte bocche non è più la stessa. Colui che l'ha detto, che l'ha detta per primo non la riconosce più, tanto è stata cambiata e accresciuta. Da ciò io concludo che uno che parla male è quasi sempre anche calunniatore e ogni calunniatore è un infame. C'è un santo padre che dice che bisognerebbe scacciare i maldicenti dalla società degli uomini come se si trattasse di bestie feroci. Parlare male, e quindi qui siamo molto vicini alla calunnia, continua la citazione, è inoltre gonfiare il male che il prossimo ha fatto. Cioè c'è un fondo di verità. Avete visto qualcuno che ha commesso una colpa e voi che fate? Invece di ricoprirla con il velo della carità, o almeno di ridimensionarla, voi invece la gigantite. Faccio un esempio. Dice, vedete un domestico che riposa un istante, o un operaio che fa lo stesso? Qualcuno ve ne parla e voi riferite, senza nessuna verifica, che è un fannullone che ruba il denaro del suo padrone. Cioè, uno ha dormito 5 minuti, è un mangiapane a tradimento, sta tutto il giorno a dormire e ruba il prossimo, il denaro del prossimo. Vedete passare una persona in una vigna o in un frutteto e vi accorgete che magari coglie qualche radice o qualche frutto, cosa che sicuramente non dovrebbe fare, è vero. Ma voi andate in giro a raccontare a tutti quelli che incontrate che quel tale è un ladro, che bisogna guardarsi da lui, anche se quello non ha mai rubato e così via. Ecco, quindi attenzione a questo brutto difetto della calunnia o un'altra forma con cui appare è quando si parla male per esagerazione. Quindi oltre che gonfiare palesemente, ecco, cioè qui viene citato San Francesco di Sales, dal Santo Curato, che scrive: non dite che il tale è un ubriaco, un ladro, perché lo avete visto rubare o ubriacarsi una volta. Noè, pensate, il grande Noè, sta nel libro della Genesi, e Lot, nipote di Abramo, si ubriacarono una volta. Ma ora vorremmo dire che Noè è un ubriacone? San Pietro non era un bestemmiatore per aver imprecato una volta. San Pietro ha imprecato una volta, e anche, insomma, quando gli hanno chiesto se conosceva Gesù, ha anche imprecato nel senso che ha spergiurato, insomma, ha detto che giuro di non averlo mai conosciuto, il figlio di Dio. Allora vogliamo dire che era un bestemmiatore? Cioè un trasgressore del secondo comandamento? Per questo incidente gravissimo, indubbiamente, ma compiuto per paura, sotto un momento di debolezza, difficile. Una persona non è viziosa per essere caduta una volta nel vizio, e quand'anche vi cadesse più volte, parlandone male, si accusa, si corre il rischio, scusa, di accusarla falsamente. Pensate agli episodi evangelici di Maria di Magdala che piange ai piedi del Salvatore e Simone il fariseo che dice se quest'uomo fosse un profeta saprebbe che è una peccatrice colei che si è gettata ai suoi piedi. Si sbagliava perché la Maddalena non era più una peccatrice ma una santa penitente perché già si era pentita di tutti quanti i suoi peccati, no? Oppure quell'altro, fariseo e pubblicano, uno di questi stando nel tempio faceva l'elenco delle proprie pretese opere buone e ringraziava Dio di non essere come gli altri uomini, adulteri, ingiusti, ladri, come quel pubblicano vicino a lui. Ma egli riteneva che quel pubblicano fosse un peccatore nel momento stesso invece in cui quello era stato giustificato. Allora, dice San Francesco di Sales, dato che oggi si parla tanto, spesso a vanvera, di misericordia, no? Se vogliamo parlare tanto di misericordia, cerchiamo di ricordare i prodigi della misericordia di Dio, no? Allora, dal momento che la misericordia di Dio è tanto grande che un solo istante è sufficiente perché egli perdona il più grande delitto del mondo, Come possiamo noi avere l'audacia di dire che colui che fino a ieri era un grande peccatore lo sia anche oggi? Cioè affibbiare una sentenza irreversibile di condanna e di impossibilità di cambiamento ad una povera persona soltanto perché per debolezza o per tante altre motivazioni è caduta in peccato? Punto interrogativo. Ora, io vi invito a fare estremissima attenzione. La volta scorsa abbiamo sentito San Giacomo parlare della lingua, di quale bestia e terribile e feroce è quest'organo che il Signore ha creato per il bene, qualora non venisse debitamente mortificato e usato per il bene. Quindi mi raccomando, ragazzi, di fare estrema attenzione a queste cose. Ora, la calunnia, come già accennavo, è sempre peccato mortale, non solo, quindi salvo i casi come abbiamo visto in cui la falsità del male attribuito non sia proprio lievissima o comunque quasi insignificante. In ogni caso il peccatore è sempre obbligato alla riparazione, anche se il calunniato ti perdona. Cioè se tu hai sparso una falsità su una persona, a parte il fatto che il confessore, questo sappiatelo, per assolverti dal peccato di calunnia deve darti per forza, come penitenza, quello di riparare, cioè rettificare l'informazione con gli stessi mezzi e nei confronti delle stesse persone a cui è pervenuta per colpa propria. Quindi se io ho dato un'informazione falsa a un giornale, che l'ha messa in giro, io vado da quel giornale e devo far pubblicare un articolo a mie spese con la ritrattazione dicendo queste cose che ho detto sul tizio, che ho fatto scrivere sul tizio, sono false. Se io ho parlato di questa cosa con 4-5 persone, devo prenderle una per una, 4-5 persone, e dire purtroppo ho sputato veleno contro quella persona, ma le cose che gli ho detto sono completamente false. Questo è obbligatorio, per cui se uno avesse commesso questo peccato e il confessore sbadato non desse una penitenza di questo genere, ciò non di meno sappia il penitente che è obbligato a farla. È come per il settimo comandamento, quando abbiamo parlato, che quando uno ruba deve restituire quello che ha rubato. E rubare l'onore è delitto assai più grave che rubare il denaro, perché l'onore è un bene preziosissimo, l'onore e la buona fama della persona. E non la puoi derubare impunemente. Ripeto, quando anche il calunniato ti perdonasse, lodevolmente, come Gesù insegna a fare nel Vangelo, sei ugualmente obbligato a ritrattare e a riparare e a rettificare. Sapete che c'è un altro grande aneddoto, un fatto vero, di San Filippo Neri, molto conosciuto, si vede anche nella fiction, quella con Gigi Proietti, che stava andata in onda, credo, un paio di anni fa su San Filippo Neri, che quando un penitente o una penitente andò a confessare a San Filippo Neri il peccato appunto di calunnia o di maldicenza, adesso non ricordo, ma tanto come vedremo sono fratelli quasi gemelli, San Filippo Neri diede come penitenza singolare quello di spennare il pollo. Penso che tutti quanti gli dicono: guarda, ti devi comprare una gallina e poi ti fai il giro di tutta Roma spennando la gallina. Quando hai spennato tutta quanta la gallina, ritorno e ti do la soluzione. Sì, insomma, questo penitente compra sto pollo, comincia a spennare tutto quanto sto pollo fino a quando lo pela completamente, quindi lo lascia con la pelle senza piume. Quando torna San Filippo Neri dice: bene, aspetta adesso prima di fare la soluzione, tu ti rifai tutto il giro, tutte quante le vie che hai percorso, riprendi tutte quante le penne e me le porti insieme al pollo. E poi i denti gli dice: dico, ma ti pare assolutamente impossibile fare una cosa di questo genere, perché le penne le ho buttate per aria, c'è stato il vento, c'è passate le cose, come faccio a ritrovarle tutte quante? Ecco, questo per farti rendere conto di quello che hai fatto, perché tu adesso hai sparso alcune voci e quelle voci diventano incontrollabili. Una volta che uno mette in giro una calunnia, è riparabile fino a un certo punto, perché io parlo male e calunnio una persona con Tizio, ma poi Tizio ne parla con Caio e Caio ne parla con Sempronio e Sempronio ne parla con Filippo, e Filippo ne parla con Adalberto, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi? Si può riparare entro certi limiti, capite com'è più grave? Perché il furto, se io ho rubato 1000 euro a una persona, prendo 1000 euro e glieli do, fine del discorso. 1000 erano e 1000 sono. Ma l'onore, se tu lo rubi, come dire, presti e dai la possibilità che l'onore sia completamente calpestato e raso al suolo, perché se parte una calunnia, è la fine. Non si sa, io ve lo dico per esperienza, insomma. E quel poveraccio che fa? A questo riguardo, attenzione poi, attenzione a una cosa gravissima, e ve lo dico, ahimè, attenzione. Attenzione ad andare a raccontare calunnie sui preti, uno. Ve lo dico non perché sono prete io, ma ve lo dico perché nostro Signore farà correre chi fa queste cose. Non parliamo poi preti, vescovi o papi o robe di questo genere, eh. Ma attenzione poi a raccontare calunnie citando le confessioni. Cioè, uno andrà a fare una confessione e esce fuori la calunnia, dice: il prete ci ha provato con me durante la confessione. Perdonatemi se sono così esplicito, eh? Oppure in confessionale mi ha detto questo, questo, questo, questo e questo. Chi fa una cosa di questo genere non è che fa un peccato grave, di più. Perché un prete che fosse calunniato in questo modo, per il sigillo sacramentale che ha, per cui lui non può in nessun modo fare riferimento a fatti, situazioni o cose ascoltate davanti la confessione, durante la confessione, non si può difendere. Per cui non può dire: ma questo è fuori di testa, io non ci ho provato con nessuno. Non può. E non può dire: guarda che io in confessione gli ho detto questo e questo ha capito quest'altro. Non lo può fare. Capite? Ecco. Quindi, siccome il sacerdote non può parlare di queste cose sotto pena di scomunica, ecco, chi fa una cosa di questo genere è doppiamente, triplamente e quadruplamente infame e colpevole davanti a Dio, perché infanga uno l'onore di un sacerdote, cosa che è gravissima al cospetto di Dio. Secondo, senza alcuna possibilità di difendersi, non solo perché ne parla alle spalle, come ogni calunnia, ma perché quand'anche questo lo venisse a sapere, non può difendersi nel merito. Deve semplicemente dire: quello che succede in confessione è soggetto sotto sigillo, se vuoi credere a questa persona, credici, se non ci vuoi credere, non ci credere. Ma io non posso dire nulla. Spero di essere stato chiaro e di essermi spiegato, perché oggi su questa materia c'è in giro una tale leggerezza che io spero chiaramente che sia giustificata dalla famosa massima evangelica pronunciata da Gesù sulla croce, dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Insomma, entro certi limiti, perché bisognerebbe usare un minimo il nostro cervelletto per capire le conseguenze devastanti di una cosa di questo genere. Va a finire una cosa del genere su Facebook e quel povero malcapitato è assolutamente rovinato vita natural durante. Quindi attenzione alla calunnia. Apriamo adesso l'altro capitolo dell'ottavo comandamento, che è quello della maldicenza. E vediamo subito nel Catechismo della Chiesa Cattolica, perché è ancora più ampio il raggio della maldicenza, che si ha quando si fa questa cosa. Allora, la maldicenza è quel comportamento, dice il Catechismo al numero 2477, di chi, attenzione subito, senza un motivo oggettivamente valido, ripeto, senza un motivo oggettivamente valido, rivela i difetti e le mancanze altrui alle persone che li ignorano. D'accordo? La maldicenza può essere, come dire, di due tipi. Si chiama critica il parlare male di qualcuno evidenziando lati negativi già conosciuti dagli interlocutori. Questa è quella che si chiama comunemente critica. Mentre si ha maldicenza in senso stretto, e quando appunto si rivelano difetti o mali morali ignari alle persone che, scusate, non ignari, ignoti alle persone che li ascoltano. È distinto ancora da questo peccato, anche se qui la terminologia non è, come dire, univoca tra gli autori, ecco, quindi basta comunque che abbiamo chiare quali sono le fattispecie, è la mormorazione. La mormorazione, chiamata anche il seminare zizzania, si ha tizio mi viene a parlare male di Caio, e io dico a Caio: lo sai tizio cosa mi ha detto di te? Questo, questo, questo e questo. Quindi vado a finire che faccio che semino un veleno e ho avuto un odio terribile tra due persone. Quindi si tratta della rivelazione di una maldicenza altrui a colui del quale si è parlato male, facendo il nome di chi ha parlato male. Quindi abbiamo chiari queste fattispecie. E leggerò qualcosa adesso anche su questo del santo curato d'Ars. Quindi attenzione che è colpa, dice San Tommaso, non solo il parlare male, ma anche il pensare male. E anche questa è colpa contro l'ottavo comandamento, ovvero il giudizio temerario, come forse tra poco riusciremo a vedere. E soprattutto è anche peccato non soltanto dire o pensare, ma anche ascoltare senza reagire calunnie, maldicenze, critiche e mormorazioni. Ha scritto San Giuseppe, speriamo presto, San Don Giuseppe Tomaselli, nel libretto citato la volta scorsa, I peccati di lingua, che col peccato di maldicenza vengono commessi tre danni morali. Il primo, il maldicente lo reca all'anima propria, poiché commette peccato. Il secondo lo fa a chi ascolta la maldicenza, il quale pecca a sua volta. E il terzo a colui del quale si sparla, a cui si toglie l'onore. Quindi ricordiamo sempre queste tre cose. Facciamo una piccola pausa salutando la Madonna, dato che sono le ore 17. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, volevo citare a questo punto ancora qualcosa del santo curato d'Ars sulla maldicenza. Quindi, secondo lui, è maldicenza il fare conoscere, senza una legittima ragione, il catechismo dice senza un giustificato motivo, è la stessa cosa, un difetto nascosto del prossimo o una colpa ignota. Ci sono persone che si immaginano che quando vengono a sapere qualcosa di male sul prossimo, possono tranquillamente dirlo ad altri e intrattenervisi. Ti sbagli di grosso, amico mio, dice il santo curato. Che cosa la nostra religione ci raccomanda più della carità? La stessa ragione ci suggerisce di non fare agli altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi. Considerate la cosa più da vicino: saremmo contenti noi se qualcuno ci avesse visto commettere una colpa e andasse a spifferarla a tutti? Saremmo contenti? No, senza dubbio. Al contrario, se ci facesse la carità di tenerla nascosta, gli saremmo molto riconoscenti. Quindi sapete bene come vi infastidisce se qualcuno dice qualcosa sul vostro conto o sulla vostra famiglia. Dov'è dunque la giustizia e la carità? Finché la colpa del vostro prossimo è nascosta, egli conserverà la sua reputazione, ma dall'istante in cui la farete conoscere, gli ruberete la stima di cui gode, e in ciò gli farete un gran torto, più che se gli togliete una parte dei suoi beni, poiché lo Spirito Santo, questa è Sacra Scrittura, ci dice che la buona reputazione vale più delle ricchezze. Quello che vi stavo dicendo prima. Vi siete mai chiesti, ragazzi, perché Il sacerdote è tenuto al segreto sacramentale sotto pena di scomunica quando ascolta le confessioni. Ragazzi, l'infrazione diretta del sigillo sacramentale, quindi se io dico Tizio in confessione mi ha detto questo, è la verità, no? Ha confessato un peccato, l'ha fatto, c'è la scomunica, late sentenzie, riservata alla Santa Sede, cioè da quel peccato ti può assolvere soltanto il Papa. E un prete che dovesse fare una cosa di questo genere, di tornare in confessionale, se lo scorda. D'accordo? Allora, perché una disciplina così severa? Perché le colpe non vanno sbandierate in giro. Perché un poveraccio che ha sbagliato, se questo peccato non è pubblico, ha il diritto a che non sia sbandierato. Lo porta al nostro Signore Gesù Cristo nel sacramento della confessione per riceverne il perdono e finisce lì. D'accordo? Saranno spifferati, e da nostro Signore in persona, solo i peccati commessi dai peccatori impenitenti e non portati nel sigillo sacramentale. Durante il giudizio universale, questo sappiatelo e ricordatelo bene, perché la giustizia di Dio rifulga e sia manifestata, scrive San Tommaso, che saranno, numero uno, rivelate le opere buone dei giusti, che i giusti in vita devono per umiltà tenere nascoste, non le devono sbandierare in giro, per umiltà, e saranno al tempo stesso sbandierati i peccati occulti dei peccatori impenitenti che fino alla fine non si sono pentiti e quindi sono dannati e quindi non ne hanno parlato nel sacramento della confessione in privato con Dio, l'hanno fatta franca sulla terra perché quelle cose non sono conosciute e al tempo stesso saranno rivelate davanti a tutti. Questa operazione, che è un'operazione sanzionatoria, finalizzata alla pubblica umiliazione del peccatore, la potrà fare soltanto Dio in questa sede, non noi. D'accordo? Detto questo, e guardate, oggi la maldicenza è una cosa spaventosa. Pettegolezzi, cose, questioni, senza un minimo di pietà e di misericordia, perché chi di noi è senza peccato? Chi? Questa moda che ci sta in giro dovunque, ve lo dico non soltanto perché riguarda soltanto il sottoscritto, ma riguarda anche altri miei confratelli, io sono il primo a non essere tenero, chi mi conosce lo sa. Con i peccati dei sacerdoti, a sottolineare ed evidenziare che essi, per il molto che hanno ricevuto da Dio, sono molto tenuti ad una grande santità, ad una grande eccellenza. Però senza questi, cioè, ragazzi, un prete non è infallibile o impeccabile. Cioè, peccato è peccato. Cioè, io sono pieno di difetti che mi mortificano e con cui ogni giorno devo combattere per cercare di ridurli, di diminuirli, di controllarli, di acquisire le virtù contrarie. Allora è carità che uno continuamente si stia a soffermare su questi difetti e ne parli in giro a tutta la popolazione civile per infangare o per screditare? Punto interrogativo? Vogliamo pretendere dalle persone una perfezione così assoluta? Mica sono tutti come il santo curato d'Ars, purtroppo. Di santo curato d'Ars ne esce uno ogni 100.000. Vogliamo avere pazienza anche, no? Vi ripeto, c'è cioè, peccato è peccato, d'accordo? Perché se un prete la fa grossa quanto una casa, adesso lo vedremo subito, in alcuni casi è anche doveroso ma non andarla a dire in giro a tutto circondario. Si va in curia e si parla col vicario generale. Se è una cosa grave e oggettiva, capite? Non se il parroco, cosa che non deve fare, siccome una giornata stava girato, mi ha risposto in maniera sgarbata, cosa che non deve fare. E ci stanno certe prediche di Don Dolindo che li suona di brutto i prediche che fanno questo, per debolezza, dicendogli sta attento tu, perché anche se fai, se preghi tutta la notte e se fai un sacco di penitenze, una persona vede come la tratti quando si presenta davanti a te. Se per debolezza ti fai scappare che la tratti male, hai chiuso con quella persona e hai anche screditato la Chiesa. Quindi certamente che è un difetto, però dalla parte di chi subisce questa cosa, oltre alla reazione esorbitante, ci potrebbe anche essere, cioè, vabbè, è un essere umano, oggi si è svegliato con la luna storta, cosa che è sbagliata, per carità, ecco. Però noi non vorremmo avere un minimo di indulgenza quando cadiamo per debolezza in un difetto? O siamo contenti che tutti ci danno addosso spietatamente, non facendone passare manco una? Cioè, ci sono dei peccati, qui penso che lo stiamo imparando, che sono commessi per debolezza, non per malizia. Certo che un prete è tenuto a grande perfezione, ma se non c'è ancora arrivata, che deve fare, poraccio? Deve andarsi a chiudere dentro un monastero? Andiamo tutti quanti in monastero, io sarei contentissimo di andarci dentro un monastero, ma ci andiamo tutti qua dentro. Allora uno deve essere anche un pochino capace di fare delle valutazioni, come dire, oggettive. Dico, sì, va bene, c'ha i suoi difetti, però c'ha anche qualche cosa forse di buono, forse, speriamo, che dico, santo cielo, certamente che noi preti siamo messi male, però possibile che c'è soltanto fango e immondizia intorno al mondo del clero? Capite? Allora, quando ci sta una grave motivazione, quando ci sta una grave motivazione, allora, non soltanto che si può, ma si deve in alcuni casi rivelare il male fatto. Ma a chi e perché? Non si deve, ripeto, rivelare il male fatto in giro. Ma si deve rivelare il male fatto a chi può porvi rimedio. Esempio, se io vedo il figlio di una mia amica o di un mio amico, non lo so, farsi le canne, perdonatemi, con un gruppetto di amici, io, se conosco il padre e la madre, sono gravemente tenuto ad andargliela a dire. Dire mi faccio gli affari miei, oppure povero ragazzino, mo se dico una cosa del genere al padre, chi lo sa che gli fa, è peccato di omertà colpevole. E attenzione, in questi casi non si tratta di fare la spia. Ripeto, deve trattarsi di cose gravi e oggettive. Se un ragazzino sta facendo le canne, sta facendo le canne. Chi sa riconoscere una canna, cioè lo vede se sta a fare una canna, d'accordo? O faccio un altro esempio, vedo il figlio di un mio amico che, non so, che va a prostitute, piccolo magari, no? Mo' perdonatemi se mi vengono questi esempi un po' borderline, però in diretta è un po' difficile. Quindi qui non si tratta di fare la spia, si tratta di avvertire, cioè un comportamento grave, oggettivamente e dannoso, fatto da una persona soggetta a un'autorità, deve essere rivelato all'autorità superiore. Nel caso, tornate all'esempio del prete, se non si tratta di una cosa gravissima e presumibilmente che il sacerdote non accetterà un'eventuale correzione, e la prima persona a cui parlarne, questo ce lo dice Gesù nel Vangelo, nell'episodio della correzione del fratello, è diretto interessato. Se tu vedi un tuo fratello commettere una colpa, ammoniscilo innanzitutto tra te e lui. Quindi con carità, vagli a far notare questa cosa di cui tu sei venuto a conoscenza. Se io sono assolutamente certo dell'incompetenza o della disonestà di un commerciante, cioè che mi ha truffato, mi ha dato un prodotto scadente, io gliel'ho fatto notare e questo mi ha detto: non mi interessa niente, il prodotto dato funzionava benissimo, affari tuoi. Cioè, se io dico a un mio amico: guarda, non andare in quel negozio perché questi ti ammollano le sole, questa non è maldicenza. Perché mettiamoci nei panni di quell'amico. Quell'amico va a quel negozio, prende un'altra sola, poi viene a sapere che sono stato truffato io. Quello mi dirà: ma perché non mi hai detto di non andare in quel posto? Se dovesse accadere, speriamo di no, che da qualche pulpito si sente dire oggettivamente, perché dopo bisogna anche stare attenti a capire bene quello che si ascolta, qualche eresia. Non lo so, dal pulpito dicesse, non lo so, non date retta a quello che insegna il Magistero della Chiesa, ma l'aborto non è nessun peccato, proprio come la sto dicendo adesso. Se dicesse una cosa di questo genere, oppure se dicesse dal pulpito: non date retta alle favole che si sono inventati i preti, ma non è vero affatto che la Madonna è vergine perché viveva con San Giuseppe come marito e moglie. Mostro le sto dicendo grosse, quindi non deve essere una frase equivoca o un po', come dire, non troppo chiara, deve essere oggettivamente una cosa grave, inequivocabile. Allora io, finita la messa, vado subito a dire al sacerdote: scusi padre, ma ho capito bene quello che ha detto? Cioè lei ha detto che l'aborto è moralmente lecito? Oppure lei ha detto che la Madonna non è vergine? Se questo risponde sì, e io gli dico: padre, ma lei capisce che sta andando oggettivamente contro l'insegnamento della Chiesa Cattolica, di cui lei è ministro, e quindi non ha il potere, l'autorità e né la possibilità di contraddirlo oggettivamente. Se quello si pone all'esame e si dice: vattene via, che non capisci niente, che vuoi insegnare a me a fare il sacerdote, sto facendo tutti, speriamo, discorsi ipotetici della irrealtà, come venivano chiamate, quindi sto parlando per impossibile, speriamo. A quel punto io non ho nient'altro da fare che prendere una bella letterina, fare una segnalazione alla curia perché qualcuno redarguisca e rimproveri questo sacerdote. Non c'è nient'altro da fare, ma perché? Perché se questo continua, spargerà con la sua cattiva azione queste eresie, perché l'ha fatto oggi, lo farà domenica prossima, lo farà domenica ancora. E dei poveri fedeli che magari stanno in buona fede, dice: ma l'ha detto il prete, e allora andiamo avanti. D'accordo? Diversi sono i casi, a mio avviso, comunque discutibili, in cui vengono fatte delle affermazioni equivoche, cioè non chiaramente eretiche, affermazioni un po' ballerine, un po'. Al limite, allora lì uno va semplicemente a chiedere qualche chiarimento a livello personale, sperando, e questo noi siamo tenuti a farlo, che si tratti soltanto di qualche uscita un po' infelice, ma tenuto presente che noi dobbiamo concedere che il sacerdote, fino a quando non abbiamo l'evidenza contraria, predichi in maniera conforme a ciò che la Chiesa insegna. Speriamo. D'accordo? Per esempio, se in sede di confessione mi venisse dato un'indicazione oggettivamente contraria alla morale cattolica, tipo, parlo sempre facendo discorso ipotetico, spero, delle realtà, un sacerdote che mi dicesse che la contraccezione non è peccato, quindi non ti confessare nemmeno queste cose perché tanto hai fatto 3 figli, basta, ne avanzano, il Signore capisce, mi sto inventando una possibile. Questa è una cosa che non può dire un sacerdote. Deve sempre avere una grandissima carità nei confronti del penitente, deve sempre dire le cose con garbo e con modo, questo sì, ma non può chiamare male il bene e bene il male. Non può farlo questo qui, no? Quindi, purché si tratti di criteri oggettivi e noi dobbiamo fare un esame di coscienza su questo, no? Evitando di mascherare come atto doveroso una cattiveria gratuita, magari nascosta sotto il velo maligno dell'invidia. Dobbiamo fare attenzione. Quindi, se c'è una motivazione grave, quindi evitare che un comportamento cattivo si perpetui, oppure evitare che una persona incorra in una mala azione che io so che un'altra persona ha fatto, o una mala parola che ha detto, in questi casi, quindi quando c'è una grave necessità o un oggettivo grave motivo di carità, si può, obtorto collo, direbbero i romani, rivelare una colpa morale, un difetto o una mancanza altrui senza incorrere nel peccato di maldicenza. Perché il bene da tutelare è superiore al male che si fa mettendo in cattiva luce il maldicente. D'accordo? Spero di essere stato chiaro e di essermi spiegato. Poi abbiamo un'altra fattispecie. Tra i peccati oggi diciamo che è una puntata un po' dedicata alle colpe più comuni commesse contro l'ottavo comandamento e raramente fatte oggetto di esame di coscienza e di confessione. Le maldicenze vanno confessate bene perché sono cose che feriscono grandemente il dovere della carità. La regola è questa, ordinariamente. Del prossimo si deve parlare in bene. Sarebbe meglio non parlare proprio degli altri. Se proprio non ne posso fare a meno, posso parlarne in bene. E se non trovo beni da dire sul prossimo, è bene tacere, non parlare proprio. Ultima fattispecie che affrontiamo oggi è quella del giudizio temerario. Attenzione anche su questo. Il giudizio temerario si commette quando, anche solo tacitamente, si ammette come vera, senza sufficiente fondamento, una colpa morale del prossimo. È quello che comunemente è chiamato pensare male. Allora, c'era buonanima il senatore Giulio Andreotti, che tra le sue varie frasi a effetto diceva sempre questa cosa: giudicare si fa peccato, ma raramente si sbaglia. È una frase un pochino ironica, nel senso che quando si acquisisce una certa esperienza, sulla base di alcuni sospetti o di alcune cose che emergono, uno può farsi un'idea di certe situazioni. E se la persona è prudente e molto esperta, pur non avendo le prove, quell'idea può non essere molto lontana dal vero. Ecco, però io non posso dare un consenso pieno a un'idea di questo genere sulla base di semplici sospetti. Spero di essere di aver chiarito. Dopo facciamo un attimo degli esempi, no? Quindi si tratta del giudizio delle intenzioni, oppure, quindi attribuire a una persona un'intenzione cattiva, oppure attribuire a una persona una cattiva azione senza che ci siano prove sufficienti per definire. Per esempio, facciamo un esempio subito così ci capiamo. Io ho dei colleghi di lavoro, magari ho avuto qualche problema con qualcuno, magari mi chiama il mio capo, il superiore, e mi fa una lavata di capo per alcune presunte inadempienze nel mio lavoro, e io capisco che questa lavata di capo è originata dal fatto che qualcuno è andato a parlare male di me. Chi è stato che ha parlato male di me? La prima cosa che penso è quel collega con cui ho avuto delle difficoltà. Ma non è detto che sia così. Se siamo in 10, perché potrebbe darsi che una persona che magari è un grande falso, un grande attore, mi fa davanti una faccia, e appena volto la faccia mi vado avanti la faccia del serpente. E quello magari che maggiormente si manifesta ostile nei miei confronti non c'ha però la sindrome degli abitanti del territorio di Giuda, cioè dei vigliacchi, e non mi va a pugnalare alle spalle, me le canta semplicemente in faccia, pur facendo male, però almeno gioca a carte scoperte. Quindi se io non ho le prove non posso dire ah sicuramente è stato quel disgraziato di quel mio collega, perché faccio giudizio temerario, perché potrebbe non essere vero. Io di esperienza su questo ce ne ho a caterva, essendo sacerdote, no? A volte uno vede un fatto, si fa un'idea, però potrebbe darsi che quell'idea è completamente sballata. Né bisogna imputare alle persone intenzioni sbagliate se non ci sono delle prove oggettive, no? Voi sapete che i padri della Chiesa dicevano, per far capire quanto bisogna stare attenti, dice, se tu vedi i padri del deserto, questo era un aneddoto, dice, se tu vedi, caro monaco, voi sapete che i monaci erano tutti quanti nelle grotte nel deserto, no? Tu vedi, caro monaco, che a un certo punto una signorina, tutta ben conciata e un po' avvenente, entra da sola dentro la grotta di un monaco e rimane lì dentro un'ora e esce da lì tutta quanta mezza scapigliata e un po' in disordine. Tu che cosa devi pensare? Te lo dico io quello che devi pensare. È una posseduta dal demonio, che il monaco gli ha fatto un esorcismo e sta ancora tutta quanta scapigliata per l'esorcismo che gli ha fatto. Non devi pensare, signorina avvenente, esce scapigliata, cosa hanno fatto? Sicuramente non hanno recitato insieme il rosario. Non devi pensare questo, perché non hai le prove. Sicuramente, magari quel monaco sarà stato un pochino imprudente, ma tu fino a quando non sei certo di una cosa negativa, non t'azzardare a fare una cosa di quel genere, perché fai un peccato gravissimo. Anche se tutto sembrerebbe deporre, ma veramente può darsi che quella era endemoniata, che è uscita tutta quanta così perché lui ha fatto l'esorcismo. Capite? Ora, diverso però, perché Gesù nel Vangelo dice non giudicate e non sarete giudicati. Però altrove dice anche, non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate secondo giusto giudizio. Allora, noi non possiamo giudicare le persone, né attribuire comportamenti cattivi senza le prove, né pur in presenza di un comportamento cattivo, oggettivo, attribuire malignità delle intenzioni, perché può darsi che quello ha fatto una cosa, anche un peccato gravissimo, non sapendo di farlo. Io ve lo dico, quanta gente oggi va a convivere, che è una cosa gravissima, e tu ti accorgi benissimo che vengono a parlare, dice... Convivo, e che problema c'è? Che male c'è? La coscienza sociale oggi, ottenebrata da tante miserie, ha creato un clima, diceva il beato Giovanni Paolo II, delle strutture di peccato pubbliche e diffuse, per cui una cosa che è oggettivamente gravissima agli occhi di Dio, per più di qualcuno, assolutamente niente. Quindi certo che quello fa una cosa gravissima, ma quanto se ne rende conto? Quindi certamente quello oggettivamente sta in una situazione di pubblico peccato, ma puoi dire quello è un pubblico peccatore anche soggettivamente? Questa ultima affermazione in verità può farla soltanto il Padre Eterno, che conosce bene i pensieri e i cuori delle persone. Però noi possiamo e dobbiamo, come dicevo, giudicare i fatti e le situazioni sotto pena di cadere nell'ingenuità, che è un peccato anche questo. Se vedo che una persona sparla del prossimo dalla mattina alla sera, io non posso, come dire, perché dice, vabbè, poverino, diamogli un pochino di fiducia, gli vado a rivelare le mie confidenze personali perché non, beh, io non devo giudicare questo che sparla, ma se sparla male dalla mattina alla sera, non saprà quello che starà facendo, voglio spiegare, non avrà sentito la catechesi sulla maldicenza, quindi non si rende conto della gravità del male che sta facendo, ma sono uno stupido si va a dire le cose mie, perché dopo le spiattella in giro a tutto il circondario. D'accordo? Quindi attenzione, no? L'unica cosa che si può e si deve fare in queste situazioni è astenersi sempre da giudicare le intenzioni, ovvero fino a prova contraria, pensare che il colpevole non si rende conto di quello che fa o della sua gravità, che ha avuto una cattiva formazione, una cattiva educazione o cose simili. D'accordo? Ora, i farisei del tempo di Gesù era evidentissimo che si atteggiavano di essere santi senza esserlo. E Gesù l'ha fatto notare in più di qualche circostanza, no? Però il nostro maestro, anche dinanzi a tale evidenza, sulla croce cosa ha detto? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Perché fino a quando è possibile, bisogna scusare l'azione oppure scusare, minimizzare o ridurre l'entità della possibile colpevolezza delle intenzioni. E quando proprio non potesse fare niente, cioè che proprio palese, questo l'ha fatta grossa, e che pure sapeva quello che stava facendo, perché mi risulta, ha detto, ha scritto qualche santo, dice, vabbè, dobbiamo pensare a una cosa, ha avuto una tentazione troppo forte, a cui per debolezza non ha saputo resistere, e attento tu che giudichi, come scrive sempre San Giacomo altrove, con troppa nonchalance, perché se il demonio viene a tentare te sulla stessa cosa, tu devi essere convinto che cadrai peggio di lui e farai peggio di lui. Quindi il sacro manto e la santa virtù della carità ci preservino e ci proteggano sempre da ogni forma di calunnia, di maldicenza e di giudizio temerario. Non facciamo mai agli altri quello che non vorremmo fosse fatti a no noi, o meglio, come Gesù ricorda nel Vangelo, quello che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo anche voi a loro. Nessuno di noi sarebbe contento di sentire sparse calunnie sul proprio conto, nessuno di noi sarebbe contento di essere oggetto di maldicenza, e nessuno di noi sarebbe contento che non si può neanche muovere e già l'hanno giudicato in maniera spietata e temeraria. Quindi, se nessuno sarebbe contento di ricevere, stiamo lontani ed evitiamo di fare questo con il nostro prossimo. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Benedico tutti gli ascoltatori, le loro cose e le loro case. Ave Maria.